Il Leone d'Oro per il miglior film va a Sacro Gra di Gianfranco Rocchi. Buonasera, buonasera. Allora, Sacro Gra, che sta per Grande Raccordo Anulare, è dunque il vincitore del Leone d'Oro della 70esima mostra del cinema di Venezia. Si tratta di un documentario ed è la prima volta che a Venezia vince un documentario, ma è anche dal 98 che un italiano non vinceva qui a Venezia. Buonasera dunque da Cristina Carpinelli, benvenuti a questo speciale dedicato al cinema ma anche alla letteratura. Il centro di questo mondo che vi raccontiamo è Venezia, dove oltre alla mostra del cinema stasera viene dato anche il premio Campiello. Salutiamo subito le nostre inviate, Marta Cagnola alla mostra del cinema. Buonasera Marta. E Alessandra Tedesco al Campiello, buonasera anche a te, spero che tu mi senta, Alessandra. Ti sento benissimo, grazie. Vediamo se abbiamo recuperato anche Marta. Marta, ci sei? Sì, sei sparita solo per un secondo, ma era proprio il momento in cui dovevo salutarti, accidenti. Va bene, allora Marta, io inizierei da te, visto che ormai i vincitori li abbiamo già detti anche nel corso dei nostri giornali da radio. Il vincitore del Leone d'Oro, dunque, a Sacro Gra, un documentario molto bello, sono tanti però i premi, raccontaci tutto. Allora, intanto vorrei parlarti di Sacro Gra, perché è stata una vera sorpresa, non per la qualità del film, ma perché l'abbiamo amato tutti moltissimo. È un documentario che è stato girato veramente con grande calma, perché il regista, che è Gianfranco Rosi, è stato svariati anni, 2 o 3 anni, a esplorare il Grande Raccordo Anulare di Roma. I romani lo conoscono bene, perché è veramente un'arteria trafficatissima che passa attorno alla capitale, ma attorno a questo Grande Raccordo Anulare, che è proprio una sorta di confine. I romani sanno bene che una realtà al di fuori del Grande Raccordo Anulare è quasi misteriosa. Ebbene, lui ha esplorato tutte le realtà che gravitano attorno a questo confine, quindi ha incontrato un pescatore di anguille, ha incontrato persone che sono state sfollate in palazzoni che guardano Roma da lontano, insomma ha tanti personaggi estremamente divertenti, perché a tratti questo film è davvero comico. Dicevamo, non eravamo stupiti per la qualità del film, che davvero ha conquistato quasi tutti, ma stupiti perché un documentario non è esattamente quello che ci si attende per la premiazione per un Leone d'Oro, anche se sapevamo che Gianfranco Rosi è entrato e che quindi aveva fatto il red carpet, ci aspettavamo un premio. È stata una bellissima sorpresa, Cristina. E allora, innanzitutto sentiamo Rosi, che tu hai proprio preso quasi subito dopo la premiazione, ve lo facciamo sentire, l'intervista di Marta Cagnola. Di questo non mi rendo conto ancora, di una responsabilità enorme. Oggi voglio essere solo felice, poi domani penserò al peso di questo meraviglioso premio. Si è così infranta la barriera tra la finzione e il documentario, e c'è una parola che li unisce ed è cinema. Lo dedico ai personaggi, a tutti i personaggi che hanno passato con me questo periodo e che mi hanno dato fiducia, a cui ho dato fiducia e che mi hanno regalato un meraviglioso pezzo importante della loro vita. Senza aver timore e con grandissima fiducia. E la cosa più bella è stata quando loro per la prima volta hanno visto fin qui a Venezia e si sono commossi, si sono divertiti e si sono identificati con loro stessi, quindi questo è stato bellissimo. È un premio al saper aspettare, perché ci sono voluti molti anni. L'attesa, il tempo è stata una delle più grossi investimenti di questo film. E il mio lavoro è sempre basato sull'attesa e su un lungo percorso sempre. So quando inizia un film, non so mai quando termina. Questa volta ho dovuto finirlo perché c'era una produzione, se no sarei andato avanti altri 3 anni. E c'è anche una distribuzione. E c'è una distribuzione fondamentale, e devo dire che il distributore è stato molto coraggioso, uscire al 26 al cinema. Il distributore l'ha preso per il cinema prima che il film fosse in concorso a Venezia, quindi questo è un grande atto di coraggio ancora. Tante persone coraggiose. E dunque, tante persone coraggiose, una mostra, Marta, che ha sorpreso appunto anche sul finale un po' tutti. Quali sono stati gli altri premiati di questa 70esima mostra del cinema di Venezia? Allora, intanto che possiamo dire che un altro dei film che avevano stupito e che avevano molto diviso, perché è un film particolarmente violento, il titolo insomma già dice qualcosa, Miss Violence, è il film del greco Alexandros Avranas, Coppa Volpi per il migliore attore, insomma quindi uno dei premi più pesanti e più attesi, ma il Miss Violence di Alexandros Avranas ha preso anche il Leone d'Argento per la miglior regia. È una storia di famiglia, ma anche una storia di incesto, insomma una storia veramente molto delicata, piuttosto pesante, un film che aveva diviso. Poi il gran premio della giuria a Stray Dogs di Tsai Ming-liang. Allora, Venezia ha una lunga storia di amore e odio con i film asiatici, nella lunga direzione Müller insomma si diceva che i film cinesi erano sempre i favoriti, questo invece è un film malese, Tsai Ming-liang, che aveva annunciato il suo ritiro dopo questo film, ha solo 55 anni, ma ha detto i produttori, il mondo del cinema non mi consente più di fare film come vorrei io, la mia creatività non è più libera, quindi questo sarà il mio ultimo film. Ebbene, probabilmente Tsai Ming-liang, dopo questo gran premio della giuria per Stray Dogs, potrebbe cambiare idea. Chi sono gli Stray Dogs? Sono i cani randaggi, e quindi è una storia anche qui di realtà difficili, di sottoproletariato, insomma un altro film che ha particolarmente diviso. Marta, ti fermo un attimo, perché prima di addentrarci nelle pieghe della mostra del cinema vorrei scambiare qualche battuta con Alessandra Tedesco, che invece sta seguendo per noi il premio Campiello, dove tra poco si saprà chi è il vincitore. Allora Alessandra, quest'anno una cinquina molto eterogenea, e allora ti chiedo di presentarcela e di raccontarci quello che stai vivendo proprio in questi istanti. Sì, noi siamo qui adesso al Teatro La Fenice di Venezia, da dove viene appunto trasmessa in diretta questa consegna del premio Campiello, che è la sua 51esima edizione. Proprio poco fa è stata diffusa dal notaio una classifica ancora parziale, che dunque vi leggo. All'ultimo posto c'è Valerio Magrelli con Geologia di un padre, pubblicato da Einaudi. Al quarto posto c'è Beatrice Masini con Tentativi di botanica degli affetti, pubblicato da Bompiani. Al terzo posto c'è Giovanni Cocco con La caduta, pubblicato dalla piccola casa editrice Nutrimenti. Al secondo posto al momento c'è Fabio Stassi con L'ultimo ballo di Charlot, pubblicato da Sellerio. E al primo posto, ma diciamo ancora classifica temporanea, Ugo Reccarelli con L'amore grazie al mondo, pubblicato da Mondadori. Ecco, sottolineiamo che questo è un anno particolare, perché purtroppo lo scrittore Ugo Reccarelli è morto proprio nel luglio scorso, meno di 2 mesi fa, ma il comitato di gestione del Campiello ha deciso comunque di far concorrere il suo libro al premio, quindi questa è la prima volta che purtroppo c'è una persona scomparsa in gara alla Campiello. Una persona scomparsa che però è molto presente, tant'è che è venuta anche la moglie, tu l'hai incontrata, che ha detto il clima che si respira è un clima di una strana serenità, questo ha detto Roberta Bortone, che è la moglie appunto di Riccarelli. Allora sentiamola in questa tua intervista. Da scrittore lo considero come un uomo di straordinaria sensibilità. E la cosa che mi ha sempre colpito di lui da moglie è che aveva un'enorme sensibilità femminile e una grande curiosità per il mondo femminile, ma non inteso nel senso bieco, inteso proprio nel senso di grande curiosità per questo mondo capace di dare la vita, diceva lui. E quindi una curiosità di entrare nell'animo delle donne. E questo lo ha reso, per me, un marito straordinario. Non è facile per uno scrittore uomo interpretare la sensibilità femminile, soprattutto le varie sfaccettature. Secondo lei che cosa l'ha aiutato di più a comprendere il pensiero femminile? Allora, io credo, e gliel'ho sempre detto, che sia stato estremamente formativo per lui un periodo in cui lui ha fatto il padre single, perché sua figlia Francesca per alcuni anni è vissuta con lui e lui ha imparato a doversi svegliare presto, accompagnare la figlia a scuola, andare a lavorare in ufficio, riprendere la figlia da scuola, portarla ai vari impegni e poi prepararle da mangiare e così via, e la notte scriveva. Cioè ha fatto per quegli anni la vita che normalmente fanno tante donne che lavorano. Allora ci fermiamo soltanto qualche istante per la viabilità e poi torniamo subito dopo. Strade in diretta. Buonasera, alle 21:15 minuti a Roma ci sono code a tratti per il traffico intenso sul grande raccordo anulare tra Puntina e Appia in carreggiata esterna e tra Casilina e Appia in interna. Sulla 3 la Napoli-Salerno si resta in coda per traffico intenso in uscita a Castellammare di Stabia verso Salerno. Traffico scorrevole sul resto della rete, vi segnaliamo a chi viaggia in treno, segnaliamo che su ordinanza della Prefettura di Bologna dalle 7.50 alle 9 di domani mattina sarà sospesa la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Casalecchio, Garibaldi e Sasso Marconi sulla linea Bologna-Porretta. Il provvedimento è necessario per consentire il disinnesco e la rimozione di un ordigno bellico. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento tra mezz'ora. Gli speciali di Radio 24. Presenza di rumori, squittii di larve e rumori di adulti. Intervenire immediatamente. Sì, c'è proprio un salone grande, sì. Facciamo bed and breakfast. E facciamo bed and breakfast. Sì, no, che lo hanno usato talmente tanto che probabilmente qualcosa ha perso, sì. Probabile. È proprio una stupidaggine, idea. Però noi che siamo una vita dentro l'acqua non ci interpellano mai, non porta mai nessuno. Vedo che è. E ben ritrovati, gentili ascoltatori, allo speciale di Radio 24 su Venezia, sulla Mostra del Cinema e sul Campiello. Quello che avete sentito era il trailer di Sacro Graal, che sta per Grande Raccordo Anulare, il documentario di Gianfranco Rosi, che è vincitore della 70esima Mostra del Cinema di Venezia. I protagonisti, come avete sentito e come ci ha raccontato proprio pochi istanti fa Marta Cagnola, sono le persone che abitano attorno al Grande Raccordo Anulare. Sono un anguillaro che quotidianamente setaccia il Tevere con la sua barca e dispensa pillole di saggezza, un attore di fotoromanzi scelto per interpretare un maggiordomo e tantissimi altri personaggi. Siamo in diretta con Venezia, con la nostra Marta Cagnola. Marta, che film è? Tu ne hai parlato con molto slancio, ma quali corde tocca questo film, questo documentario? Cristina, mi conosci molto bene, quindi hai capito che sono davvero entusiasta di questo Sacro Graal. Io sono un'appassionata di documentari, quindi effettivamente sono un po' di parte. Però è un film che non ha voce narrante, quindi sei veramente immerso in questo viaggio. C'è la tua mappa mentale di questo luogo, che è un luogo di Roma, ma potrebbe essere un luogo in qualsiasi parte del mondo, perché in realtà questi personaggi, a parte il loro accento romano e alcuni tipi insomma di comicità che probabilmente a Roma sono particolarmente tipici, ecco, racconta di periferie e racconta di luoghi e non luoghi che potrebbero trovarsi in qualsiasi città del mondo. Davvero Gianfranco Rosi, lui lo diceva, che ringraziava questo cast straordinario, perché è un cast assolutamente involontario e soprattutto trovato con una ricerca davvero molto profonda. Allora, le radici di questo documentario si trovano anche in una ricerca di Nicola Bassetti e nel lavoro di Renato Nicolini, che aveva cominciato a studiare questo raccordo anulare di Roma, che davvero è una realtà molto presente nella vita dei romani, ma che in realtà non lo conoscono, che lo attraversano senza mai riflettere rispetto a quello che c'è attorno. Quindi sono un po' dei confini dell'universo e la magia di incontrare persone che non conosceresti mai nella vita di tutti i giorni, ma soprattutto ci sono alcuni personaggi davvero straordinari. C'è un nobile decaduto che è stato sfollato in un piccolissimo monolocale, ma che racconta ancora di un passato straordinario, ma c'è appunto questo anguillaro che ha una filosofia assolutamente straordinaria. Ecco, insomma, dei personaggi incredibili, Cristina. Ecco Marta, come dicevi tu anche, questa è stata una mostra che ha premiato molto forse la qualità, soprattutto o perlomeno la ricerca di questa qualità artistica. Ad esempio Elena Cotta, che ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile a Venezia, è stata comunque anche questa una rivelazione, nonostante l'età della signora Cotta. Guarda, guarda Cristina, qui c'è una storia molto bella alla quale io sono legata anche personalmente, perché io conosco molto bene la figlia di Elena Costa, che è un ufficio stampa dei più amati del cinema, Olivia, che peraltro è l'ufficio stampa del film Gianfranco Rosi, quindi sono per lei una doppia vittoria. Elena Costa è una signora di 82 anni che ha passato una vita nel teatro, quindi come tanti attori teatrali una vita non sotto i riflettori se non quelli del palco, ma certo non una vita fatta di tappeti rossi. Infatti il primo tappeto rosso l'ha fatto a 82 anni, poi il secondo tappeto rosso l'ha fatto da vincitrice della Coppa Volpi, quindi è una storia straordinaria. Fantastica. Peraltro Elena Costa che festeggia in questi giorni 60 anni di matrimonio con il signor Carlo. L'ha detto, sì, è stato molto emozionante. Sì, è sì. Molto emozionante. E allora Marta, guarda, visto che l'hai sentita proprio pochi istanti dopo la premiazione, la facciamo sentire anche ai nostri ascoltatori. Subito Coppa Volpi, ma chi se lo sarebbe mai immaginato, ma non scherziamo, ma è bellissimo. E poi quello che non mi stanco di ripetere, perché è vero che io porto discretamente bene i miei anni, ma li porto perché vivo sempre le cose con molto entusiasmo. Il premio, questo premio poi, che è enorme, sensazionale voglio dire, mi ha ringiovanito. Mi ha ringiovanito anche perché si sono creati degli orizzonti, un futuro, delle occasioni evidentemente, e quindi mi ha ringiovanito. Quindi io devo ringraziare non solo Emma Dante, che mi ha offerto questa occasione straordinaria, questa bravissima attrice, regista molto, e anche attrice poi tra l'altro, molto sensibile, molto, molto brava, piena di inventiva, piena. E non solo devo ringraziare lei, non solo devo ringraziare le persone che hanno permesso la realizzazione di questo film, che non è un film, anche se secondo me incontrerà moltissimo il pubblico, ma non è facilissimo, non è il filmetto comico. E quindi oltre a tutti devo ringraziare questo premio proprio per la sensazione che mi dà. Lei ha conquistato la giuria con uno sguardo. E questo è il bello di quella parte. Che a un certo momento le battute erano due, tre, basta, ma il resto, che meraviglia, è il cinema ragazzi, è l'intensità dello sguardo, è lì che devi trasmettere tutta una situazione, dei rapporti, una progressione drammatica esclusivamente con l'intensità, ed è questo è bello. Questo è bello, mi sembra bello, voglio dire, una bella sfida per degli attori. Cosa le ha detto suo marito Carlo? Beh, era felice, era veramente, veramente felice. Io poi devo tanto a lui proprio perché, credetemi, un affetto che dura tanti anni diventa fondamentale e importante nella vita, è ossigeno vitale. Francamente, per questo che ho sentito il bisogno di dedicarlo anche a lui, il premio, questo risultato, perché ce lo merita Carlo. Ma cosa ha pensato quando l'hanno richiamata? Ma sono rimasta parecchi secondi completamente senza fiato, assolutamente, così. Ma Elena, ci sei? Sì, sì, ci sono. E questa dunque la mostra del cinema di Venezia, la passione per il cinema è sempre a Venezia, alla Fenice, il premio Campiello, Alessandra Tedesco. Mentre aspettiamo che da questa cinquina di nomi che ci hai dato esca il vincitore, intanto ci sono stati nel corso della giornata altri vincitori, raccontaci un po'. Sì, allora, beh, innanzitutto il vincitore al premio alla carriera, che è un premio che il Campiello ha istituito solo da pochi anni, è stato dato per esempio a Carlo Fruttero, ad Andrea Camilleri, quest'anno è stato assegnato ad Alberto Arbasino, che proprio adesso sul palco della Fenice di Venezia lo sta ritirando fisicamente, il premio però era stato già annunciato da qualche settimana. Arbasino è sicuramente, come dire, uno degli scrittori più eclettici che abbiamo in Italia, romanziere, saggista. Diciamo che la sua cifra stilistica è soprattutto l'ironia e il sarcasmo. E allora oggi, stamattina, quando gli sono state lette anche le motivazioni di questo premio, è stato premiato anche perché si dice che i suoi testi non sono mai definitivi, lui li fa in una sorta di work in progress, lui ha proprio voluto commentare questa motivazione al premio, e allora possiamo sentirlo, direi. Sì. Mi colpisce soprattutto, oltre a fatto che mi dichiaro molto lieto e molto fiero per questo riconoscimento, ma mi colpisce soprattutto il fatto che non si consideri mai un testo come definitivo, in quanto mi capita che per qualche ragione, grande o piccola, io devo rivedere per la ripubblicazione, magari da un altro editore, devo rivedere un testo e trovo che si può sempre migliorare. Poi magari non è vero, magari lo si peggiora, perché un sinonimo che magari al momento sembra meglio, invece andava meglio quello che c'era. Però diventa quasi irresistibile questa voglia di modificare, e fra l'altro, siccome l'ho modificato parecchie volte, libro ormai lunghissimo, Fratelli d'Italia, allora volevo segnalare che fra la prima edizione e l'ultima, dove c'è ben poco in comune. Allora Alessandra, questo era Arbasino subito dopo la premiazione. Ci sono aggiornamenti sul campiello? Sì, ci sono assolutamente aggiornamenti, perché è stata diffusa la classifica finale del premio Campiello 2013. Allora vi posso leggere la classifica. Al quinto posto Valerio Magrelli con 21 voti. Al quarto posto Beatrice Masini con 36 voti. Al terzo posto Giovanni Cocco con 47 voti. Al secondo posto Fabio Stassi con 83 voti. Al primo posto Ugo Riccarelli, 102 voti, vince il premio Campiello 2013. Con l'amore graffia il mondo di Mondadori. Alessandra, te l'aspettavi tu questa vittoria? Guarda, era un po' nell'aria. Diciamo che quest'anno, come avevo già raccontato in diversi collegamenti con Radio 24, c'erano tre cosiddetti favoriti, che erano Riccarelli, Masini e Stassi, anche se veramente il premio Campiello è imprevedibile, perché a votare il vincitore finale è una giuria di 300 lettori comuni e quindi, come dire, non è certo possibile prevedere il loro gusto. L'amore graffia il mondo di Mondadori è sicuramente un romanzo molto molto bello, purtroppo sarà l'ultimo romanzo di Ugo Riccarelli. Se abbiamo tempo possiamo naturalmente accennare anche ai contenuti di questo romanzo. Certo. Allora, la protagonista è una ragazza che si chiama Signorina, quindi sentirete parlare di questa signorina, ma è proprio il nome proprio di questa ragazza, che ha un sogno, quello di realizzare degli abiti. Insomma, inizia a fare la sarta, ma purtroppo è il periodo della guerra e si fa la guerra, come dire, fa fermare i sogni di tutti, ma purtroppo i sogni di Signorina si fermano anche perché lei partorisce un bambino che ha delle difficoltà, dei problemi di salute, come purtroppo aveva lo stesso Riccarelli, e quindi Signorina dovrà affrontare con forza la vita, lasciare i suoi sogni, e in qualche modo Ugo Riccarelli ha voluto con questo libro premiare la forza di tutte le donne, perché nella maggior parte dei suoi libri ci sono sempre dei personaggi femminili molto sfaccettati e che rappresentano sempre appunto una grandissima forza e determinazione. Grazie ad Alessandra Tedesco. Ovviamente nel corso di questo speciale noi vi faremo sentire anche tutti gli altri scrittori che hanno partecipato alla cinquina appunto per il premio Campiello, interviste interessanti, parliamo di letteratura e parleremo ancora di cinema, perché si è conclusa oggi la 70ª mostra del cinema di Venezia, e lo faremo anche in questo caso con interviste agli autori, ai registi, agli attori che hanno preso parte a questa mostra, che si è conclusa appunto in maniera molto vivace, come ci ha raccontato anche la nostra Marta Cagnola, ma soprattutto si è conclusa con la vittoria di un italiano, Sacro Gra, che sta per grande raccordo anulare. Adesso ci fermiamo per qualche istante, diamo la linea alla regia e poi torniamo subito dopo. Flormart 11-13 settembre. Gli operatori del mercato dei fiori, piante ed attrezzature si incontrano alla Fiera di Padova. Flormart.it. 01 Distribution presenta il nuovo film di Gianni Amelio, in concorso alla 70ª mostra del cinema di Venezia. Che ti piace devo fare? Tutti. Li faccio fare tutti quanti. Antonio Albanese è L'Intrepido, dal 5 settembre al cinema. Ciao, sono Mario Tozzi. Nella mia esperienza di geologo ho imparato che una semplice crepa nel muro può nascondere un problema di cedimento nel terreno di fondazione della casa. Uretec risolve il problema. Con il sistema brevettato ad iniezioni di resine espandenti, Uretec risolve in modo definitivo, rapido ed economico. E con la garanzia di 15 anni di esperienza e oltre 15.000 interventi. Chiama Uretec per un preventivo gratuito 800 200 044 oppure vai su uretec.it, perché Uretec risolve. Panorama, questa settimana solo un euro. Inchiesta esclusiva. Tutti segreti per trovare un buon lavoro e ben pagato all'estero. La vera storia del prof ossessionato dalle sue studentesse. Viaggio in un paese diviso. Solo su Panorama, solo un euro. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Il sole e il caldo estivo stanno dominando la scena sull'Italia, ma la situazione cambierà gradualmente a partire da domani a causa di una perturbazione atlantica in lento avvicinamento dall'Europa occidentale. Sarà una domenica ancora di sole e di caldo al sud e in Sicilia, dove le temperature aumenteranno raggiungendo punte fino a 32-34 gradi. Clima estivo anche al centro-nord, ma con tempo meno soleggiato e frequenti passaggi nuvolosi. Al nord il clima sarà oltretutto afoso e aumenterà l'instabilità, con locali rovesci già al mattino nelle Alpi centrali, tra pomeriggio e sera temporali in arrivo al nord-ovest, in estensione a fine giornata a Toscana, Veneto e Trentino Alto Adige. Per maggiori dettagli consultate il sito www.meteo.it e con questo è tutto. Gli speciali di Radio 24. Gentili ascoltatori, ben ritrovati da Cristina Carpinelli a questo speciale che Radio 24 ha deciso di dedicare alla cultura, al cinema, alla mostra del cinema di Venezia e al Premio Campiello. Premio Campiello del quale ci siamo occupati proprio pochi istanti fa, dandovi praticamente in diretta il vincitore del Premio Campiello, della 51esima edizione del Premio Campiello, è L'amore graffia il mondo, il romanzo dello scomparso Ugo Riccarelli. Siamo in collegamento con Alessandra Tedesco, che è per noi al Teatro La Fenice e sta seguendo appunto questi momenti di premiazione. Alessandra, quello che dicevamo prima è che tu hai incontrato poi tutti i finalisti e li hai intervistati. Raccontaci un po' intanto come è stato accolto il premio in questi istanti e qual è il clima che si respira. Beh, naturalmente c'è stato un applauso enorme per Ugo Riccarelli, sia per il libro, ma soprattutto un applauso allo scrittore, insomma. Il premio viene fisicamente poi ritirato dalla moglie, di cui noi prima abbiamo sentito le parole, perché certo, L'avevamo intervistata già stamattina. Devo dire che anche gli altri scrittori sono sempre stati molto solidali. Considerate che da una volta che viene decisa la cinquina a maggio, poi questi cinque scrittori girano l'Italia insieme per fare diversi incontri con il pubblico. Ovviamente Riccarelli non aveva potuto partecipare più di tanto a questi incontri, però da parte di ognuno c'era un ricordo affettuoso. Valerio Magrelli lo conosceva da tantissimi anni, Fabio Stassi mi ha raccontato appunto che aveva avuto modo di conoscere Riccarelli oltre che apprezzare i suoi libri. Ugo Riccarelli, se posso darvi anche un mio ricordo personale, ho avuto l'occasione di incontrarlo diverse volte, di intervistarlo. Oltre ad essere un bravissimo scrittore, era soprattutto un grande signore, era veramente un uomo a modo, e oggi parlando con la moglie mi ha detto: mi raccomando, niente cose lacrimevoli su mio marito, mi raccomando, perché bisogna sorridere, andare avanti, lui avrebbe voluto così. E questo dimostra ancora una volta che appunto era un grande uomo, che ha avuto anche la solidarietà naturalmente degli altri finalisti al Campiello. Alessandra, tra i finalisti c'è anche Beatrice Masini, in finale appunto con Tentativi di botanica degli affetti, di cui ci hai parlato, la protagonista è bianca. E la tua intervista a questa scrittrice è partita proprio da questo personaggio. Sentiamo. Decisamente sì, è forse anche un po' anacronistico, benché si incornici insomma in un periodo di grandi possibilità in generale, possibilità per le idee di muoversi, di cambiare, anche di possibilità di cambiamento. C'è una piccola vena nella storia che parla del pre-risorgimento, quindi siamo in quel clima lì. È veramente un tempo fervido, fervoroso, agitato in qualche modo, quindi ci stava bene anche una un personaggio, un'eroina non normale, ecco, che non si muovesse solo nei canoni di quello che si pretende o ci si aspetta da una fanciulla all'inizio dell'Ottocento, una fanciulla graziosa, di buona famiglia, che sa fare tante cose e che forse deve solo aspettare che qualcuno la chieda in sposa. Ecco, Bianca è diversa perché ha questo talento che trasforma molto velocemente in un mestiere, questa è la sua caratteristica forte, la sua diversità. D'altra parte non è l'unica, diciamo, stravaganza, ecco, del libro, più che altro ho cercato di vendicare in qualche modo delle signore che facevano lo stesso mestiere di Bianca, che l'hanno fatto però più avanti in età vittoriana, vengono denominate tutte insieme Women of Flowers, come se fossero un mazzo di fiori anche loro, e sono queste donne che di fatto facevano acquerelli di botanica, però spesso lo facevano sotto pseudonimo maschile perché il loro lavoro non poteva essere riconosciuto ufficialmente. Bianca fa appunto l'acquarellista, abbiamo detto persona indipendente, donna indipendente, però sembra molto, come dire, impreparata dal punto di vista sentimentale alla vita. Insomma, questo è anche un romanzo dell'educazione sentimentale di Bianca. È certo un romanzo di formazione ed è la sua crescita di sentimenti. Di fatto è come se lei si muovesse con due passi diversi, tanto è rapida, vispa, vivace, là dove appunto deve mettere in gioco la sua capacità, e trova anche molto rapidamente un proprio modo di esprimersi, meno convenzionale di quello dell'inizio. A un certo punto scopre il fascino del bianco e nero contro il colore, contro l'acquerello, che tutto sommato è quello che ci si aspetta da lei, tanto invece è ingenua, candida, appunto non preparata alla vita, soprattutto quando la vita è un tumulto di sentimenti, sentimenti che prima sono altrui, che però si riverberano, si ripercuotono sulla sua vita, costringendola a cambiare, a reagire, a muoversi, quindi tirandola fuori da questo guscio anche molto delicato e molto ideale in cui forse anche il padre ha contribuito a metterla, insomma, con i suoi insegnamenti, ma anche con un'educazione insolita che l'ha resa un pochino diversa dalle altre. Di nuovo insieme, e abbiamo parlato del premio Campiello che è andato allo scomparso Ugo Riccarelli, e siamo anche a Venezia con la nostra Marta Cagnola. Marta, quanti film hai visto tu in questi giorni? Ma sai che non te li so contare, perché allora la vita del giornalista inizia sempre con la proiezione delle 9 del mattino, che di solito è quella di un film in concorso, poi c'è un altro film alle 11:30 di solito, poi durante il giorno può capitare di recuperare una proiezione pomeridiana se non siamo coinvolti in mille interviste come accade di solito, poi ci sono altre una o due, di solito due proiezioni serali, una alle 19 o 19:30 e una alle 22 o 22:30, quindi insomma basta fare il conto per 10 giorni di Mostra del Cinema. Sono molti film, ti confesso che io li appunto, mi segno sempre quali film ho visto perché altrimenti mi confondo, poi ho ricchi quaderni di appunti di festival, altrimenti poi vado in confusione, non mi ricordo più nulla. Ma non trapela comunque dai collegamenti, se ti può rassicurare questo. Allora, senti, volevo chiederti questa cosa, perché da fuori, così a noi è parsa anche una mostra che ha dedicato molto spazio al tema del femminile, al tema delle donne, sopra tutte le storie c'è quella di Filomena, ma non c'è solo quella, ce ne sono tante. Ecco, ci sono, secondo te, c'è stato secondo te in qualche modo un filo rosso che ha collegato i film più apprezzati da pubblico e critica? Guarda Cristina, io faccio un passo indietro, da qualche anno la mondanità non c'è più ai festival o ce n'è molto meno, è un po' una conseguenza della crisi, ci sono meno soldi per portare le star in giro per il mondo, insomma, per portare una grande star a Venezia il budget è attorno ai 500.000 euro, tra spostamenti, stanze, scorta, particolari vari, insomma, quindi le star ormai non si portano quasi più. Allora si punta sulla qualità, e quest'anno moltissimo sulle storie reale. Quindi i due grandi temi erano, secondo me, le donne, se ne è parlato davvero tanto, e il male di vivere. Il male di vivere declinato in tanti modi. Il modo più bello, che è quello della speranza, abbiamo sentito anche Elena Costa prima, la vincitrice della Coppa Volpi, che ha detto una cosa che a me è piaciuta moltissimo a proposito di donne, quando ha detto che a 82 anni questo premio le apre nuovi orizzonti. Credo sia una cosa che dobbiamo imparare qualsiasi mestiere facciamo, non dobbiamo per forza fare gli attori. Io credo che sia una Coppa Volpi a tutte le donne che hanno passato una certa età e che pensano che non ci siano più orizzonti. Lei ha dimostrato che di orizzonti ce ne sono ancora. La favorita prima di Elena Coppa era Judi Dench, un'altra grande donna di una certa età. Jane, Judi Dench, che era favorita con il film che poi però ha vinto il premio alla sceneggiatura, quindi vedi, alla fine la storia al femminile di Stephen Frears, che è stato uno dei film più amati dai primi giorni, ha avuto un grosso riconoscimento. Sì, e poi scusa, no, vai avanti, sì, perché io volevo parlare così potrò andare avanti tutta la sera. No, io volevo parlare anche di quelle storie di cui poi mi accennavi anche tu poco fa quando ci siamo sentite prima dello speciale, che in fondo sono state premiate anche per l'originalità del tema trattato. Uno tra tutti è Still Life. Still Life, un film che ha conquistato tutti, e diciamo che tutti hanno pensato che Still Life sarebbe stato perfetto anche in concorso. È un film delizioso che uscirà in novembre nelle sale, e io annoierò gli ascoltatori di Radio 24 perché ricordo loro che Still Life va visto assolutamente, andrà visto assolutamente. Un film di Uberto Pasolini, il nome vi dirà poco, in realtà è il suo secondo film da regista, però è un noto produttore, vi dico solo che è stato il produttore di Full Monty, quindi un uomo molto attento alla realtà. Marta, lo sentiamo perché l'hai intervistato proprio poche ore fa. La sensazione è una giuria di registi, di attori molto speciali, per cui fa molto piacere, molto molto piacere. È un film sulla solitudine che però ha trovato un sacco di compagnia a questo punto. È un film sulla solitudine, ma soprattutto sulla vita e sulla necessità di stare con gli altri e di lasciare che gli altri entrino nella nostra vita e noi entriamo in quella degli altri, per cui è giusto che abbia avuto un riscontro di gruppo e non di singoli. Aspettiamo quindi di vederlo in sala anche in Italia, è importante. Novembre, sì, uscirà a novembre con la BIM. Quindi è importante un riconoscimento per portare la gente anche al cinema a vederlo? Spero che aiuti, spero che qualcuno sabato sera, prima di decidere dove andare, fra Star Wars e questo, pensi, ma forse proviamo questo. Un premio che dividerai col protagonista? No, è interamente del protagonista, è assolutamente il film del protagonista. Io in questa sezione non c'era un premio al protagonista, allora penso l'abbiano dato al regista per sbaglio, ma però il film è del protagonista assolutamente. E dunque a Venezia con la mostra del cinema, con le voci che hanno fatto questa mostra, e a Venezia anche con il Campiello, con la nostra Alessandra Tedesco, che in questi giorni ha raccolto tutte le interviste dei finalisti al premio. Uno dei finalisti era Fabio Stassi, che con Sellerio è uscito con L'ultimo ballo di Charlot. Sentiamolo. Mi preoccupa molto, mi ha preoccupato, più che preoccupato diciamo che sono stato di un'incoscienza veramente senza precedenti. Io non so neanche come ho fatto. Conoscevo molto, molto bene la sua vita, perché la sua autobiografia fu uno dei primi libri che comprai in una bancarella a Porta Portese. L'avrò letta davvero tantissime di quelle volte, da quando ero bambino, perché mi incuriosiva da sempre questo personaggio, il segreto, soprattutto il suo personaggio, cioè la sua maschera, Charlot, sapere cosa c'era dietro questa maschera. E credo che quando ci si pone una domanda del genere, le armi dello storico, io ho studiato storia a lungo, ma dico sempre che l'ho studiata per tradirla, le armi dello storico sono spuntate, non basta il documento, non basta la verità storica delle cose, c'è sempre un'altra verità. Il compito della letteratura, infatti piacere che riconosci a questa storia, comunque nella sua incoscienza, nella sua follia, il carattere di un romanzo, perché questo è. E come romanzo, tutti i romanzi hanno questa meravigliosa dote, che insomma possibilità, che è la licenza di mentire. E perché non approfittarne? In fondo, appunto, si fa un'altra cosa, si va alla ricerca di una verità molto più nascosta, molto più intima, molto più personale. Per raggiungerla, io credo che si debbano attraversare, il percorso sia proprio quello dell'invenzione. Dietro la maschera di Charlot c'è davvero Charlot. Il segreto, se forse c'è un segreto che quest'uomo lo aveva e che pochissimi artisti hanno avuto, è questo, che il loro personaggio corrispondeva esattamente a loro stessi. La linea va alla viabilità, ci ritroviamo tra poco. Strade in diretta. Buonasera, a Roma ci sono code a tratti per traffico intenso sul grande raccordo anulare tra Pontina e Appia in carreggiata esterna e tra Casilina e Appia in interna. Sulla tangenziale di Napoli il traffico intenso in direzione di Pozzuoli con rallentamenti tra Corso Malta e Capodimonte. E a Napoli resta sospesa la circolazione dei treni sulla linea 6 della metropolitana. I lavori di manutenzione si prolungheranno infatti oltre la giornata di domani, 8 settembre, data inizialmente prevista per la riapertura al pubblico. Ed è tutto, il prossimo aggiornamento con Strade in diretta tra mezz'ora. Gli speciali di Radio 24. Di nuovo in compagnia di Radio 24 e dei nostri inviati a Venezia a seguire il Festival del Cinema di Venezia e il Premio Campiello. Alessandra Tedesco, ci sei? Sì, sì, ci sono, visto che avete sentito che avete mandato in onda proprio l'intervista di Fabio Stassi, ecco, lui rispondeva alla domanda se naturalmente insomma, era stato un po' rischioso, si era messo questo peso sulle spalle, cioè quello di affrontare un personaggio amatissimo come Charlot, perché il suo romanzo è sostanzialmente una biografia inventata, fantasiosa di Charlie Chaplin, che arriva più o meno a 80 anni e fa un patto con la morte, dice: se ti faccio ridere mi fai guadagnare un altro anno di vita. Perché vuole guadagnare più vita? Perché ha un figlio piccolo di 9 anni e questi anni che lui guadagna in questo gioco con la morte li passa a scrivere una lunga lettera, che poi è appunto il romanzo L'ultimo ballo di Charlot, una lunga lettera al figlio in cui racconta la sua vita meno conosciuta, e qui naturalmente Stassi ha fatto un gioco di vero verosimile. Allora, in questo gioco letterario ritroviamo appunto, come hai raccontato anche tu e abbiamo sentito anche nel corso delle nostre interviste, in qualche modo forse l'unico filo rosso che accomuna questa cinquina del Campiello. Sì, probabilmente, diciamo, come dicevo, è una cinquina piuttosto eterogenea, libri molto diversi, però in questo romanzo, L'ultimo ballo di Charlot, c'è Chaplin anziano che parla a un figlio, quindi il rapporto fra un padre e un figlio. In Geologia di un padre di Magrelli c'è il ricordo del padre da parte del figlio. Ecco, a questo proposito, Alessandra, scusa se ti interrompo, poi continuiamo, però io la farei sentire l'intervista a Magrelli che tu hai realizzato, così poi dopo la commentiamo e cerchiamo di fare un po' il punto su questi libri che hanno partecipato alla 51esima edizione del Premio Campiello. Sentiamo. Non volevo documentarmi, anche perché io appunto la mia professione è quella di professore universitario e dunque lavoro per anni su libri, su autori. Volevo tenere le due cose ben distinte e ho scelto come unico criterio me stesso. Io dico, seguo soltanto quello che si posa sulla carta moschicida del ricordo. Ecco, le mosche capitano sulla carta moschicida per caso, ecco, il caso è quello che mi ha guidato, anche se in verità questo mi ha permesso di far emergere, o meglio di catturare, quei punti più dolenti, più dolorosi. C'è un capitolo in particolare, il 15, che mi è venuto spontaneo intitolare Leidi, come Leidi di Marzo di Cesare, la morte di mio padre, che segna forse il nadir, l'opposto dello zenith, il punto più basso della narrazione, più tragico. Poi ci sono d'altra parte storie invece apertamente comiche, come quello che succede con la macchina di mio padre che esplode, va in pezzi, oppure con lui e fa il bagno. Ecco, io tenevo molto a questo aspetto tragicomico in cui l'ironia facesse da antidoto al dramma. È un ritratto anche molto severo, molto lucido di tuo padre, non è solo un ritratto emotivo. A un certo punto tu, descrivendo appunto tuo padre, dici la vicinanza con tanti missionari laici non aveva affatto scalfito in lui il blocco granitico d'odio su cui poggiava il suo giudizio circa il genere umano. Tuo padre era un uomo molto tranchant nei confronti del resto del mondo proprio. E questo è un po' l'eredità che mi ha lasciato, un'eredità che io ho dovuto interpretare. Perché? Perché purtroppo era un uomo segnato dalla sofferenza, da una sensibilità esacerbata, era rosso di capelli come me, quindi siamo io, mi autodefinisco lo scuoiato, ecco. Cioè dovremmo avere una crema protettiva 50 da mettere però sui nervi, sul sistema neurologico. Allora Alessandra, questo era Magrelli con Geologia di un padre, ci stavi raccontando appunto che forse sono gli affetti, la famiglia stessa ad essere in qualche modo analizzati in molti di questi romanzi che sono arrivati in finale. Cristina, ti chiedo subito la linea, cambio rapidamente tono perché abbiamo qui davanti la signora Riccarelli, la moglie di Ugo Riccarelli, che ha vinto questo premio Campiello 2013 e ci ha raggiunto qui in sala stampa. Signora Riccarelli, sappiamo che non vuole insomma ricordi lacrimevoli di suo marito, ma che cosa avrebbe pensato di questa vittoria? Sarebbe stato felicissimo perché signorina era la sua creatura, voleva... l'avrebbe voluta accompagnare in questo viaggio nel premio Campiello, l'avrebbe voluta vedere lei proprio in persona sul palco, non certo io. E probabilmente avrebbe ricordato Ilva, la mamma di Ugo, sua mamma, alla quale credo che sia in qualche modo, cioè alla quale è ispirato un po' il personaggio di signorina, e io credo che anche avrebbe ringraziato Antonio Tabucchi, che è stato un po' il suo maestro e che lo ha spinto a diventare scrittore. Ecco, avete sentito in diretta proprio dalla sala stampa della Fenice, del Teatro La Fenice di Venezia, la moglie di Ugo Riccarelli che ha vinto questo Campiello 2013. Cristina. Grazie ad Alessandra. Alessandra, nella cinquina anche Giovanni Cocco con La caduta. Raccontaci un po' com'è questo romanzo, poi facciamo sentire l'intervista all'autore. Sì, La caduta è un romanzo di un esordiente innanzitutto, si parla della cosiddetta caduta dell'Occidente attraverso fatti veri degli ultimi 10 anni, l'uragano Katrina ma anche gli attentati di Londra, e lui ne ha fatto un romanzo sperimentale, insomma un romanzo che lui stesso ha definito postmoderno, e allora gli ho chiesto soprattutto che cos'è per lui un romanzo postmoderno, sentiamolo. Innanzitutto dei romanzi complessi, stratificati e polifonici, che consentono di raccontare storie diverse con ambientazioni diverse nello stesso testo. In questo senso anche in maniera programmatica siamo in aperto contrasto con la narrativa italiana mainstream, nel senso che si cerca di andare al di là dei cliché giovanilisti per arrivare all'essenza delle cose, come diceva Giuseppe Pontigi, quindi storie che parlassero, in questo caso che parlano di aborto, di migrazione forzata, di omosessualità, di periferie in subbuglio, e quindi i grandi temi dell'Occidente, i grandi temi della contemporaneità. Postmodern novel, nel senso che quella è la tradizione a cui io faccio riferimento. Nel mondo anglosassone è attecchito negli anni 60 e 70. Beh, noi siamo rimasti anche nel campo della narrativa un po' indietro, e forse questo è il tentativo per dire si può e si deve provare anche un'altra via, soluzioni diverse. Il titolo La caduta sottintende un sottotitolo, La caduta dell'Occidente. Tu rappresenti in questo romanzo diversi episodi tragici della recente storia del mondo occidentale. Ci sono diverse voci narranti. In questo romanzo ci sono, possiamo dire, 12 quadri, 12 affreschi, e Ognuno di questi affreschi prende spunto da fatti realmente accaduti. Possiamo citarne alcuni? Beh, si parte dalla rivolta nelle banlieue parigine del 2005, poi si attraversa tutti gli ultimi 10 anni con, per esempio, l'attentato alla metropolitana di Londra del 2005, l'uragano Katrina che devasta New Orleans, per arrivare fino alla crisi finanziaria che travolge prima la Grecia e poi tutta la vecchia Europa. Quindi in questo senso si fa riferimento alla quotidianità e alla cronaca, ma con strumenti che sono propri della narrativa, perché per raccontare la realtà ci sono i giornalisti, ci sono i media. E lo scopo dell'autore di narrativa, di chi fa letteratura, di chi fa questo mestiere, probabilmente un altro, non è raccontare la realtà, ma reinterpretarla, riscriverla, fornire dei mezzi a chi legge per decodificare ciò che sta realmente accadendo. E allora torniamo a Venezia, questa volta alla mostra del cinema con Marta Cagnola. Marta, questa mostra è stato anche l'anno dell'addio di un grande del cinema di animazione, Miyazaki. Allora, innanzitutto ti chiedo di commentare il film stesso che è stato presentato alla mostra di Miyazaki. Io non so quanto faccio adesso, ma io pianto tantissimo, perché è un film estremamente poetico, poi per quelli della generazione, la nostra generazione, quelli che sono cresciuti coi cartoni animati di Miyazaki, con cartoni animati giapponesi in due dimensioni, quelli che non avevano alcuna pretesa di verosimiglianza col reale, ma un'estetica propria del cartone animato, ebbene, il disegno è quello. Non so quanto possa piacere ai ragazzi e bambini di oggi, ma sono i nostri disegni animati ed è una storia estremamente poetica, la storia di un ragazzo che sogna di volare, ma soprattutto sogna di poter costruire degli aeroplani, quindi la fuga per una volta dalla realtà, e pensa che questo ragazzino giapponese sogna di costruire gli aeroplani come gli italiani, perché il suo mito è il Conte Caproni, e quindi ci sono delle bellissime immagini dell'Italia, cioè si dipinge un amore per l'Italia che forse gli italiani non sono neanche in grado di riconoscere, figuriamoci di dipingere. E in effetti questo tema del sogno è poi forse quello che è rimasto più nella memoria di chi ha partecipato a questo festival. Mi sto riferendo soprattutto a Miyazaki, ma anche a Che strano chiamarsi Fellini di Ettore Scola, che ha molto emozionato e commosso, nonostante Scola dicesse appunto che voleva far ridere, perché Fellini era un personaggio estremamente ironico. Anche in questo caso c'era nella memoria, nel ricordo, anche il sogno di un'Italia, di un paese. E lì ci viene nostalgia per un'Italia, per un cinema che non abbiamo vissuto, un cinema in cui tutti erano amici, Age, Scarpelli, Fed, Metz, Fellini, c'era Marchesi, insomma tutte le grandi firme erano tutti amici, tutti collaboravano e tutti riuscivano a costruire il cinema che noi abbiamo, il cinema che ha fatto grande l'Italia. Quello è un grande atto d'amore, quel film che presto uscirà nelle sale italiane, è un grande atto d'amore di Ettore Scola, che pensava di non dirigere più film, ma al 20° anniversario della morte del suo amico Federico Fellini ha deciso di fargli ancora un regalo. Lui poi ha detto a tutti coloro che si commuovevano: non bisogna piangere, perché si piangono le persone che muoiono senza aver lasciato traccia. E poi Fellini si sarebbe arrabbiato, anche se Scola ha usato un'espressione molto molto molto più colorita, ecco. Immagino. Alessandra Tedesco dalla Fenice, ormai i premi sono stati dati, si conclude anche questa 51esima edizione. Raccontaci un po' quali sono in pochissimi istanti le cose che stai vedendo in questo momento. Beh, c'è grande emozione da parte di tutta la platea presente qui al Teatro La Fenice di Venezia per questa vittoria di L'amore grazie al mondo di Ugo Riccarelli, romanzo pubblicato da Mondadori. Avete sentito poco fa in diretta le parole della moglie, e non so se c'è il tempo ancora di ascoltare il... Non abbiamo più tempo, avremo modo di farlo in altre occasioni. Ti ringrazio molto Alessandra Tedesco, ringrazio Marta Cagnola, ringraziamenti speciali in regia a Gianfranco Ferronato e Benedetta Acri per l'assistenza. Da New York a Pechino, da Roma a Berlino, le città allargano gli orizzonti e diventano smart. Smart City. Smart City è il programma di Radio 24 che vede nel futuro delle città intelligenti. Sono Maurizio Melis e vi aspetto da lunedì a venerdì alle ore 21 su Radio 24. in collaborazione con Cersaie, ceramica e arredo bagno dal 23 al 27 settembre a Bologna. Cerchi sconti da fine del mondo? Vuoi risparmiare un mare di euro? Magari fosse vero! Sconta tutto Expert fa proprio per te! La lavatrice Electrolux Rex, 7 kg di carico, 1200 giri, in classe A++, con lo sconto di 150 euro, costa solo 299 euro! Offerta valida dal 29 agosto al 14 settembre 2013 nei punti vendita Expert aderenti. Sconta tutto Expert! Da sballo!